Perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io conosco bene l'Albania, con le mie televisioni l'ho illuminata da 30 anni e tutti parlano bene l'italiano. Era un po' che non si sentiva parlare Berlusconi, quindi si torna a parlare con lui, perché lui ha parlato oggi a una presentazione di un libro a Palazzo Giustiniani di un religioso, un padre albanese, Zef, sulle persecuzioni perpetrate dal regime comunista di Enver Hoxha ai danni degli ordini religiosi in Albania. Insomma, Berlusconi ha detto che ha illuminato l'Albania e ha illuminato anche però poi tutti i suoi tifosi, dicendo che in realtà non venderà il Milan. Sapete che era un'indiscrezione che girava ieri, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, e poi ha anche rassicurato, non lo so, eventuali corteggiatrici, perché ha detto che in realtà non si sposerà con la Pascale. Anche questa era un'indiscrezione di ieri di un quotidiano di Ischia, che diceva che proprio lì il 13 giugno si sarebbero sposati Silvio Berlusconi e la compagna Pascale. Non è così. E poi c'è un'altra dichiarazione interessante della giornata, che è quella del tecnico della nazionale Prandelli, a proposito della sconfitta di ieri contro la Spagna nell'amichevole. Ha detto: l'Europa va più veloce, il calcio, scusate, la nazionale è come il paese. Insomma, non sappiamo se la cosa sia confortante o meno. Da quello che poi precisa, no, dice: la nazionale e il calcio sono come il paese, se non abbiamo grandi nomi o grandi numeri dobbiamo sopperire con grandi idee. E allora Renzi ce l'avrà queste grandi idee? Che cosa ha detto oggi al vertice di Bruxelles, che era in realtà sull'Ucraina, ma ha anche parlato un po' brevemente dei conti pubblici italiani? Ha detto che insomma gli italiani non hanno compiti da fare a casa, che sanno che cosa fare. Di questi argomenti, di molte altre cose, parleremo questa sera dopo un primo riassunto che vi faccio come sempre all'inizio, riassunto della giornata. Per voi sempre i canali, per le vostre libere opinioni c'è la pagina Facebook, sempre lì, non si muove, di Effetto Notte, oppure i messaggi al 349-238-6666. Ma partiamo un po' con il racconto della giornata. Renzi al vertice di Bruxelles: nessun compito dall'Unione Europea, dice, noi sappiamo cosa fare. I fonti di governo fanno sapere che non ci saranno manovre correttive. Le notizie di poco fa che è arrivato Renzi a Villa Taverna per una cena con il ministro degli esteri, il segretario di Stato americano Kerry. Ucraina e il referendum della Crimea illegittimo, dicono Obama e l'Europa, e l'Unione Europea pronta a comminare sanzioni a Mosca. Movimento 5 Stelle, espulsi da Grillo 5 senatori dimissionari e altri 5 sarebbero pronti a lasciare. Scontro tra treni a Catanzaro, 2 feriti gravi, anche una donna incinta. E poi Berlusconi rassicura i tifosi: non vendo il Milan. E partiamo quindi dalla giornata di Renzi, il suo primo incontro internazionale, ma soprattutto dai conti pubblici italiani. Il governo, precisano fonti del Ministero dell'Economia, all'indomani, ve lo ricordate, di ieri, della strigliata europea per gli squilibri macroeconomici, non ha in agenda il governo alcuna manovra correttiva. E Renzi, lasciando Bruxelles, ha detto: non ho nessuna rassicurazione da dare ai leader europei sui conti. Noi non abbiamo rassicurazioni da dare, premesso che qui si è parlato di Ucraina. E quindi non si è parlato della situazione economica dei Paesi membri, che verrà affrontata nel prossimo Consiglio il 20 e 21 marzo. Ma rispetto a questo costante refrain italiano per cui si dipinge l'Europa come un luogo nel quale veniamo a prendere i compiti da fare a casa, non è così. L'Italia sa perfettamente quello che deve fare, lo sa da sola, lo deve fare per il futuro dei propri figli. E lo farà, consapevole che oggi la priorità per il nostro paese è lavoro e crescita, crescita e lavoro. E sui conti oggi è arrivato intanto la reazione di un arrabbiato ex ministro Saccomanni, che ha detto: i commenti sulla correttezza dei conti presentati al tempo dal governo Letta sono incomprensibili e immotivati, così ha detto l'ex ministro dell'economia. E il presidente del Consiglio Renzi, lo avete sentito, ha partecipato al vertice sull'Ucraina. È stato fatto un lavoro significativo per tentare di accogliere il grido di dolore del popolo ucraino, ha detto, e poi con i nostri inviati corrispondenti capiremo meglio quali sono state le decisioni prese in merito da Bruxelles. Emerge soprattutto questa disappunto totale dell'Europa e del presidente americano Obama su un'eventuale convocazione del referendum in Crimea per renderla indipendente dall'Ucraina. Dicono Obama e Unione Europea: è un referendum illegale. E si è detto molto preoccupato per i notevoli rischi geopolitici legati appunto alla crisi ucraina il presidente della Banca Centrale Europea Draghi, che oggi ha tenuto la tradizionale conferenza stampa dopo la decisione sui tassi, che restano invariati. La Banca Centrale Europea resta immobile, confortata dai segnali di una seppur modesta ripresa dell'economia e dalle previsioni di una lentissima risalita dell'inflazione nei prossimi tre anni verso l'obiettivo del 2%, il Consiglio della BCE ha deciso di non toccare nulla, né come previsto i tassi di interesse, né le altre possibili misure di stimolo che, come ripete sempre il suo presidente Mario Draghi, è pronto a usare se necessario e che qualcuno sui mercati finanziari stavolta si aspettava. Draghi ha aggiunto però una cosa: anche quando l'economia comincerà a ripartire a un passo più convincente, la Banca Centrale Europea continuerà a mantenere i tassi di interesse molto bassi fino al riassorbimento della molta capacità produttiva inutilizzata. E dopo i richiami di ieri della Commissione Europea all'Italia e altri paesi, ha invitato ancora una volta a non mollare sull'aggiustamento dei conti pubblici, ma a farlo in modo da non danneggiare la crescita, quindi tagliando la spesa pubblica invece di imporre nuove tasse. Nel frattempo la BCE si impegna a un lavoro che Draghi ha definito chirurgico sulle banche in crisi, per ritrovare la fiducia nel sistema creditizio e rilanciare i prestiti alle imprese e alle famiglie che per ora continuano la contrazione. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Poi c'è un'altra specie, diciamo, di vertice, di conferenze in realtà a Roma, conferenza internazionale sulla Libia, che ha seguito per noi l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Oscurata dalla crisi ucraina che fa rimbalzare Kerry, Lavrov e i loro colleghi ministri degli esteri da una stanza all'altra in frenetici scontri bilaterali, la conferenza sulla Libia di Roma si è rivelata liquida ed eterea quanto il gas che scorre nelle vene di Tripoli, Algeria e Mosca, i nostri tre principali fornitori. Eppure il caos libico deve essere in testa alle nostre preoccupazioni internazionali. Lo è a parole, molto meno nei fatti, se si esclude l'addestramento di 15.000 soldati libici all'estero che un giorno dovrebbero riportare l'ordine in un paese in mano alle milizie, ai clan, alle cabile e ai gruppi islamici radicali. In realtà, come ha detto anche il mio ministro degli esteri, Federica Mogherini, senza sicurezza e stabilità la Libia di strada ne può fare assai poca, con i relativi timori per il gasdotto dell'Eni e le forniture petrolifere, timori ancora più acuti se si pensa alla crisi ucraina e al gas della Russia, il nostro primo fornitore. E adesso la politica italiana, col via libera della legge elettorale, la legge elettorale che slitta ancora. Non arriverà prima della prossima settimana il via libera della Camera all'Italicum. Le votazioni sulla nuova legge elettorale oggi andranno avanti fino a mezzanotte, poi i lavori saranno aggiornati a lunedì. A deciderlo è stata la conferenza dei capigruppo per consentire a Fratelli d'Italia di svolgere il suo congresso a Fiuggi. A Montecitorio sono ancora un centinaio gli emendamenti da votare e restano da sciogliere i nodi di quelli sulla parità di genere, su cui ad insistere è soprattutto il PD. Stiamo lavorando ad un accordo con le altre forze politiche, spiega la democratica Morani. Ciò non toglie che il Partito Democratico comunque ha per statuto la presenza del 50% di donne con l'alternanza uomo-donna nelle liste, per cui per il Partito Democratico il problema della rappresentanza delle donne non c'è. Nonostante qualche voce fuori dal coro, Forza Italia con Gelmini ribadisce invece il suo no agli emendamenti sulle quote rosa. Mentre la maggioranza procede in ordine sparso, Forza Italia è leale al patto sottoscritto con Renzi, che non prevedeva l'emendamento riferito alla parità di genere. Sulla nuova legge elettorale ad intervenire anche Napolitano, il capo dello Stato auspica una conclusione positiva del suo iter in Parlamento e assicura che promulgherà l'Italicum soltanto dopo un attento esame. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul fronte dei partiti si è tornato a farsi vedere in Senato Berlusconi per la presentazione di un libro, come vi dicevo prima. Sotto i riflettori restano i 5 Stelle, che continuano a perdere pezzi. Si sono isolati e non possono continuare ad essere rappresentanti ufficiali del movimento nelle istituzioni. È con poche parole sul suo blog che Beppe Grillo annuncia la cacciata dei 5 senatori Bencini, Bignami, Casaletto, Mossini e Romani. Sono ufficialmente fuori. Una decisione che formalizza la rottura avvenuta nei giorni scorsi, quando i 5 avevano preso posizione contro l'espulsione dei 4 dissidenti storici, tra cui Aureliano e Battista. Ora sono automaticamente fuori e non c'è bisogno di avviare nessuna procedura di espulsione, dice Maurizio Santangelo, capogruppo al Senato. Così Paola Taverna. Ci aspettiamo coerenza, questo significa che le loro dimissioni per noi comportano cooptare chi era dopo di loro, in maniera che il gruppo si possa riconsolidare e continuare l'azione politica che è propria del movimento. Ma le espulsioni rischiano di provocare effetti a catena, si parla di altri 4-5 senatori pronti a lasciare, come se non bastasse la notizia riportata dal quotidiano Il Giorno di una busta contenente proiettili indirizzata ai senatori Battista e Aureliana. Battista che oggi in un tweet scrive: Beppe Grillo, Highlander, resterete tu e Roberto, ottima prova di democrazia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Occupiamoci anche di scuola, visto che in cima ai pensieri di Matteo Renzi e anche della ministra dell'istruzione Giannini, giustamente, che è stata nostra ospite proprio all'indomani della sua nomina a ministra, che ha annunciato l'apertura dei cantieri per le scuole tra giugno e settembre. L'obiettivo è di arrivare a 4 miliardi di investimenti per l'edilizia scolastica. Arrivano anche 135 milioni per il mezzogiorno. Il ministro dei beni culturali Franceschini ha firmato il decreto che autorizza 46 nuovi interventi di restauro in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, immediatamente cantierabili. E siamo alla vicenda dell'Ilva. Per il colosso dell'acciaio la procura di Taranto ha chiesto il processo per 53 indagati. Disastro ambientale per i Riva, concussione per Nichi Vendola. C'è l'ex patron del gruppo e c'è la politica. Sullo stesso banco degli imputati per il disastro ambientale dell'Ilva c'è Emilio Riva e c'è Nichi Vendola e ci sono vecchi e nuovi amministratori locali. La procura di Taranto chiede il processo per 50 persone e 3 società accusate tutte a vario modo e ciascuna a seconda dei propri ruoli di aver in sostanza negli anni svenduto l'ambiente e con esso la salute dei cittadini a favore dei Riva. Un anno e mezzo dopo i primi sequestri e dopo il lungo braccio di ferro tra magistratura e politica all'ombra dei 256 camini dell'Ilva, i PM chiedono dunque che una stessa corte giudichi gli ex titolari ed ex funzionari del polo siderurgico che avrebbero tramato per aggirare i vincoli ambientali insieme a quella politica accusata di aver fatto loro da sponda voltandosi dall'altra parte. Al governatore si contesta una presunta pressione sul direttore dell'ARPA, reo di un atteggiamento troppo rigido verso l'Ilva. Se il reato è difendere i lavoratori, io sono colpevoli, commenta Vendola. I PM chiedono il rinvio a giudizio tra gli altri anche per il sindaco della città Stefano, per l'ex presidente della provincia, per ex assessori regionali. Se dunque si arriverà a dibattimento, sarà la città di Taranto a giudicare se stessa. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. C'è anche una notizia di pochi istanti fa che riguarda il Piemonte. Sapete che è praticamente caduta la giunta perché è stato accolto il ricorso dell'ex governatrice Mercedes Bresso contro le ultime elezioni che c'erano state in Piemonte. Bene, adesso c'è questa sentenza del TAR che dice: bisogna indire il voto, nuove elezioni in 7 giorni o il Piemonte sarà commissariato. Passiamo però alla cronaca dalla Calabria, dove c'è stato un incidente ferroviario. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Gimigliano, piccolo centro vicino a Catanzaro, lungo un tratto a binario unico delle ferrovie della Calabria, ad 1 chilometro a nord della stazione di Madonna di Porto. Nello scontro frontale tra due littorine, erano 3 carrozze in tutto, sono rimaste ferite 6 persone, tra cui una donna incinta, 2 delle quali più gravi ma non in pericolo di vita. A bordo anche 16 atleti della squadra giovanile di calcio della Garibaldina di Soveria Mannelli che stavano rientrando dopo una partita a Catanzaro. Tra i 60 passeggeri, molti dei quali studenti o pendolari, diverse le persone rimaste contuse o sotto shock per lo spavento. Ancora non chiara la dinamica dello scontro avvenuto sotto una forte pioggia che ha reso complicati anche i soccorsi. Forse un errore umano oppure un malfunzionamento nelle segnalazioni. Sulle cause dell'incidente farà luce la procura di Catanzaro che ha aperto un'inchiesta. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi sempre per la cronaca gli sviluppi dell'omicidio della giovane donna e del suo bambino a Milano. Victor Hugo Gomez, il salvadoregno fermato per aver ucciso a coltellate sgozzandoli la giovane donna dominicana Libani Lopez e suo figlio Leandro di 3 anni e mezzo, è ora accusato anche di violenza sessuale perché avrebbe costretto la donna a subire un atto sessuale. La nuova contestazione è stata formulata, da quanto si è saputo, dal PM di Milano Prisco nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP nel carcere di San Vittore, interrogatorio nel quale il fermato ha ribadito la confessione già resa. E poi un lutto tra musica e poesia, e ci ha lasciati Manlio Sgalambro. Il pubblico lo conosce soprattutto come l'ispiratore dell'opera di Franco Battiato. Manlio Sgalambro, nato a Lentini in provincia di Siracusa nel 1924, era un filosofo senza essere laureato in filosofia, uno studioso di Nietzsche e un individuo geniale. 21 anni fa l'incontro casuale che gli cambia la vita, quello appunto con Franco Battiato. 5 libretti d'opera, 7 album musicali, sceneggiature di 3 film con la regia dello stesso Battiato. Il brano più celebre nel secondo album con Sgalambro ai testi e Battiato alla musica, L'imboscata. Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria, La Cura nasce nel 1996. Da qui nasce anche l'idea dei live di Battiato con la presenza in scena di Sgalambro. Battiato produce anche l'unico album di Sgalambro da solista. Nel 2001 esce Fan Club con la U di Divertimento, in cui Sgalambro riproduce classici pop che si diverte anche a cantare in pubblico. La mer con voix dansée. Ma Leo Sgalambro ha pubblicato soprattutto con Adelphi molti saggi. Il primo, scritto all'età di 55 anni, La morte del sole. L'ultimo, volume edito l'anno scorso da Bompiani, Variazioni e capricci morali. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere la notizia, la dichiarazione rassicurante di Silvio Berlusconi e i suoi tifosi, che ha detto: non ho nessuna intenzione di vendere la società rossonera, quindi almeno per il momento non vende il Milan. Bene, questo è il riassunto della giornata. Adesso ci saranno altri temi che approfondirò man mano con gli ospiti. Se avete delle opinioni, degli argomenti insomma da esprimere o da sottoporre, effetto notte, la pagina Facebook, oppure messaggi al 349-238-6666. Per esempio, visto che affronteremo anche questo tema oggi, era la sua primo incontro internazionale, Renzi secondo voi saprà farsi valere in Europa? Ha detto, tanto la dichiarazione è forte, noi non abbiamo da fare i compiti che ci detta l'Europa, sappiamo cosa fare, a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Adesso praticamente in 60 secondi, anche meno, vi ricordo quali sono stati i fatti principali prima di salutare il primo ospite. Renzi all'Europa, niente compiti a casa, dice sappiamo cosa fare, nessuna manovra, e l'Unione Europea intanto apre all'uso dei fondi per la crescita e lavoro. E poi, a proposito del vertice europeo sull'Ucraina, la Crimea ha intenzione di votare l'adesione alla Russia, l'Unione Europea e gli Stati Uniti dicono il referendum è illegale, quindi il dialogo torna in salita. Movimento 5 Stelle, espulsi da Grillo 5 senatori dimissionari e altri 5 sarebbero pronti a lasciare. C'è stato uno scontro tra treni a Catanzaro, 2 feriti gravi, tra cui una donna incinta, e poi Berlusconi che rassicura i tifosi dicendo che non venderà il Milan. Bene, a questo punto ci dovrà dire il nostro Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore, che era lì appunto oggi a Bruxelles, se Renzi ne è uscito bene, anche se il vertice lui ha confermato era sull'Ucraina, però insomma, visto che ci avevano bacchettati soltanto ieri, Gerardo, anzi ti farei sentire direttamente la sua voce e poi commentiamo. Ciao, va Gerardo, bene, un bene, momento. Ciao. Noi non abbiamo rassicurazioni da dare, ammesso che qui si è parlato di Ucraina. E quindi non si è parlato della situazione economica dei Paesi membri, che verrà affrontata nel prossimo Consiglio il 20 e 21 marzo. Ma rispetto a questo costante refrain italiano per cui si dipinge l'Europa come un luogo nel quale veniamo a prendere i compiti da fare a casa, non è così. L'Italia sa perfettamente quello che deve fare, lo sa da sola, lo deve fare per il futuro dei propri figli e lo farà, consapevole che oggi la priorità per il nostro paese è lavoro e crescita, crescita e lavoro. Quindi lavoro e crescita, crescita e lavoro. Gerardo, raccontaci tu. Ma che cosa volete che vi dica? È stato sicuramente poco apprezzato dagli storici corrispondenti di Bruxelles il fatto che la prima sua uscita qui a Bruxelles al Consiglio europeo poi non si sia conclusa con una conferenza stampa. Ha fatto in proprio effetti, due dichiarazioni in croce, no? Possiamo dire, Gerardo. Sono le cosiddette dichiarazioni al VIP corner, cioè prima di entrare in macchina, dove può gestirle meglio, perché può anche far finta di non aver sentito una domanda urlata, può dire ho fretta, vedete mi stanno aspettando con la macchina. Svegliamo gli escamotage vari, ecco, funziona così. Ecco, diciamo che ha cercato, sa che il terreno è sdrucciolevole, ha cercato di stare un poco sulla difensiva. Sicuramente si era fatto tardi, è saltato anche l'incontro con il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Herman Van Rompuy, e aveva poi a Roma, che lo attendeva, niente meno che il capo della diplomazia americana, John Kerry, appunto, a Villa Taverna, dove adesso si trova Renzi a questo pranzo ufficiale con il ministro degli esteri Mogherini per discutere dell'Ucraina, della Libia, perché c'è stata una conferenza internazionale a Roma sulla Libia, e l'agenda del viaggio italiano di Obama il 27 marzo prossimo, perché Obama sarà a Roma il 27 marzo per incontrare il Papa in Vaticano. Devo dire che Kerry ha fatto un importante endorsement ieri, sostenendo che era contento di essere a Roma e in questa fase appunto del nuovo governo, un governo in questo momento di transizione, con un nuovo governo che sta facendo, ha detto Kerry, progressi importanti nella crescita e nell'affrontare la disoccupazione. Ecco, quindi ha incassato, diciamo, alla fine di questa lunga giornata con una parentesi politica estera, ha incassato questo endorsement di Kerry. Ai suoi collaboratori avrebbe detto che è stata comunque una giornata utile per capire i meccanismi di funzionamento del Consiglio europeo e anche per gettare le basi di possibili alleanze con altri paesi in vista del Consiglio del 20 e 21. Che cosa vuol dire? Vuol dire riaprire quelle alleanze, quei rapporti privilegiati con i paesi del sud dell'Europa, a cominciare dalla Spagna, dalla Francia, che servono per fare un poco da barriera, contrastare un poco lo strapotere della Germania, che rappresenta sempre il punto critico e più forte in questi summit. Ma Gerardo, ha detto, fra le altre cose, Renzi, suo linguaggio schietto, insomma, sui conti non abbiamo rassicurazioni da dare, nel senso che a questo momento non possiamo rassicurare perché non abbiamo le risorse, gli strumenti per farlo, o perché dice aspettate mercoledì, che ne aveva già annunciato ieri, il Jobs Act, allora, casa, scuola, eccetera, eccetera. Sì, è inutile fare un po' l'esegesi di quello che ha detto. Tentavo. Da un lato, ha voluto tagliar corto, cioè dicendo non è che siamo qui con il cappello in mano per doverci giustificare e prendere i compiti e metterli nella cartella e farli a casa, eccetera. Quindi è stato un atteggiamento un poco così anche di orgoglio che è quella che è poi la sua cifra politica su questi temi, che abbiamo già visto nelle primarie, insomma nelle campagne elettorali interne, eccetera. Quindi niente di nuovo. C'è invece un elemento di novità e forse anche un poco che poi ci sarà sicuramente nei prossimi giorni su di chi sono le responsabilità di questi conti poco in ordine. Infatti. Già l'altro ieri Palazzo Chigi ha fatto diffondere quella che una volta si chiamava velina e che adesso in maniera un poco più edulcorata si chiama norma di linguaggio, ma che praticamente è un SMS che gli uomini della comunicazione di Palazzo Chigi mandano ai giornalisti, in cui si sapeva che i numeri non erano quelli che raccontava Letta, ma siamo gentiluomini, non abbiamo calcato la mano. Commenti ieri, oggi dice l'ex ministro Fabrizio Saccomanni, incomprensibili e immotivati, ma ovviamente la partita non è finita qui, perché anche il presidente della BCE Mario Draghi si è inserito nel dibattito e ha detto che in effetti il monito dell'Unione Europea ha dei motivi validi per essere stato fatto. Ecco, quindi siamo in una fase in cui, in attesa delle misure del 12, quindi Job Act, misure sull'edilizia scolastica, eccetera, ci sarà ancora un rimpallo tra il nuovo governo e il precedente, di chi è la responsabilità di non avere messo in sicurezza i conti pubblici. Infatti sembra, allora, forse Taddei, il responsabile dell'economia del PD, ha smentito che Renzi abbia mai parlato dell'eredità del governo Letta, quindi giustificandosi del fatto, insomma, quelli prima di me che hanno sbagliato i conti e che ci hanno dato insomma questa eredità effettivamente. Però mi pare, appunto, come dicevi tu, che è Saccomanni quello che se l'è presa di più, no? Da questo punto di vista. E poi adesso il passaggio più complicato sarà scrivere le misure da presentare appunto, credo entro fine marzo, no, all'Unione Europea, e soprattutto, per far cambiare soprattutto idea. Trovare le coperture, perché sì, spending review d'accordo, anticipo di queste misure europee sul quadro comunitario di sostegno 2014-2020, ma basterà? Soltanto del cuneo si parla di 10 miliardi, non sono cifre di poco conto, 10 miliardi e poi 2 miliardi per l'edilizia scolastica e quant'altro, c'è già chi, come dire, fa il conto un poco così della serva, come si diceva, ed è arrivato già a cifre molto importanti, con uno stock del debito che è quello che è, francamente tutti questi impegni appaiono al momento davvero, insomma, molto molto gravosi per le finanze pubbliche italiane. Quindi la copertura è l'elemento sul quale sta lavorando Padoan, i suoi tecnici. Lunedì ci sarà un Eurogruppo, lunedì Padoan verrà qui a Bruxelles, discuterà con gli altri, si discuterà d'Italia e Francia, non solo d'Italia, questo è vero, ma insomma è chiaro che il sorvegliato speciale in questo momento dei grandi è l'Italia, se si eccettua poi Slovenia e Croazia e si eliminano i paesi sotto programma, cioè Portogallo, Grecia, eccetera. Grazie Gerardo Pelosi, è tutto chiaro. Grazie a voi e buonasera. Anche se non sono chiare le coperture, che è sempre il grande punto interrogativo che aleggia su questo governo Renzi, dal piglio ottimista e fattivo. Insomma, come sempre, non resta che dire, staremo a vedere. Adesso però stiamo a sentire la pausa, pubblicità, se volete rimanete naturalmente, anzi rimanete assolutamente, poi dopo toccheremo altri argomenti, parleremo di Ucraina, parleremo anche dell'Ilva e di altri temi. Vedo alcuni messaggi fiduciosi sull'opera persuasiva che Renzi riuscirà a compiere prossimamente in Europa e altri piuttosto pessimisti, insomma per adesso sono un 50%, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, sempre a vostra disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. Alziamo un po' da Santoro, servizio pubblico, c'è Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, il duro e puro, sentiamo cosa dice. Sapendo perfettamente che il Senato molto difficilmente le voterebbe, e se parla delle dimissioni votare dei suoi colleghi. Tanti mesi. Evidentemente per un movimento che deve fare della compattezza la sua forza, evidentemente ti metti fuori da solo, e questo è il concetto. Cioè noi siamo dei dipendenti dei cittadini italiani che ci pagano fior di stipendi per stare qui dentro a legiferare e a combattere contro questo malaffare che è diventata la Repubblica Italiana, figlia della trattativa Stato-mafia, ricordiamocelo. Ecco, se tu non vuoi portare avanti questo tuo onorevole compito, perché non siamo onorevoli ma ci sentiamo onorati di quello che stiamo facendo, e arrivi a dimetterti da senatore, automaticamente non credi più nel tuo lavoro di senatore, e noi del Movimento 5 Stelle preferiamo che subentrino altri 5 senatori che abbiano voglia di lottare, di combattere, di stare in trincea, Santoro. La posizione è chiara di Alessandro Di Battista. Vi ricordo velocissimamente i titoli dei temi principali. Renzi al vertice di Bruxelles, dice l'Europa niente compiti a casa, sappiamo cosa fare, nessuna manovra correttiva ci sarà, intanto l'Unione Europea apre l'uso dei fondi per la crescita e per il lavoro. Per quanto riguarda l'Ucraina, sempre tesa la situazione, soprattutto perché poi la Crimea annuncia questo referendum per l'adesione alla Russia, e sia Europa che Stati Uniti dicono che il referendum è illegale, quindi il dialogo torna in salita. Il Movimento 5 Stelle, avete appena sentito Di Battista, espulsi da Grillo 5 senatori dimissionari e poi altri 5 sarebbero pronti proprio per questo a lasciare. C'è stato uno scontro tra i treni oggi a Catanzaro, 2 feriti gravi tra cui una donna incinta, e poi Berlusconi che ha rassicurato i tifosi dicendo che, smentendo l'indiscrezione di ieri, non venderà il Milan. Ora invece di un'indiscrezione voglio parlare con Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. Ciao caro Beda. Sì, buonasera. Vorrei sapere se anche tu hai partecipato, dicono per ammorbidire i leader europei, a questa colazione di lavoro con lasagne alle capesante, funghi e spinaci, poi un filetto d'agnello in salsa di menta con ventaglio di verdure e per finire crumble di pere congelato al caramello. Naturalmente anche il caffè, poi ammazza caffè. C'eri anche tu, Beda? Temo di no. Pare, insomma, delle agenzie che dicessero che per ammorbidire coloro che si devono poi occupare della situazione così dura dell'Ucraina, siano stati a loro offerta questa colazione di lavoro. Dopodiché, da questa colazione, che cosa si è deciso? Beda, mi sembra che le posizioni siano ancora piuttosto in alto mare, che il negoziato sia in alto mare, no? Perché adesso una cosa anche che ha contrariato profondamente un po' tutti, sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea, è questo referendum che annuncia la Crimea, che aveva già annunciato nei giorni scorsi, ma sembra sempre più, mi pare che si parli del 16 marzo addirittura. Che si dice allora? Che si è detto oggi al vertice, Beda? Ma ho l'impressione che ci sia stato un inasprimento della posizione europea nei confronti della Russia, perché il vertice, che è durato almeno un paio di ore in più rispetto alle previsioni, ha portato alla decisione dell'Unione Europea di sanzioni a tappe nei confronti della Russia. Le prime sanzioni sono operative fin da oggi e prevedono la sospensione dei negoziati che sono in corso da parecchio tempo con la Russia per quanto riguarda la concessione di visti, ma poi queste sanzioni potrebbero crescere di importanza se la Russia non dovesse arrivare al tavolo delle trattative a breve, nei prossimi giorni. La mia impressione è che si sia cercato di trovare un compromesso tra i paesi dell'Est che vogliono usare il pugno duro contro Mosca e invece i paesi della cosiddetta vecchia Europa, direi la Germania, la Francia, l'Italia, che vogliono preservare il rapporto con la Russia, il rapporto economico, il rapporto politico. E quindi che cosa si è deciso? Fondamentalmente si è deciso delle sanzioni a tappe nella speranza di guadagnare tempo e di far sì che la Germania, perché è la Germania che sta avendo un ruolo cruciale in questa vicenda, riesca a convincere i russi ad ammorbidire le loro posizioni e ad arrivare al tavolo delle trattative. Beda, anche il governatore della Banca Centrale Europea Draghi, Mario Draghi, oggi ha detto: i rischi geopolitici legati alla crisi in Ucraina sono notevoli e potrebbero generare conseguenze imprevedibili. Sì, non è la prima volta che lo dice, lo ha detto anche all'inizio di questa settimana. È chiaro che la Banca Centrale Europea è preoccupata non tanto per il peso specifico dell'Ucraina, perché l'Ucraina non ha enormi rapporti finanziari o commerciali con la zona euro. Parlava forse del gas, di questioni energetiche? Assolutamente, pensava al gas, pensava naturalmente al fatto che quel paese è sull'orlo della guerra civile, c'è un'importante comunità russofona che la Russia vuole difendere, la Russia ha in Crimea, che è una penisola dell'Ucraina, un grosso contingente militare di circa 15.000 uomini, si dice che la Russia abbia trasferito soldati in Crimea per controllare la situazione, c'è il pericolo evidentemente che la situazione scappi di mano e possa comportare rischi geopolitici molto più gravi di quelli a cui stiamo assistendo adesso e che potrebbero generare grossi problemi economici. A proposito di questioni energetiche, oggi ha espresso la sua posizione anche la ministra degli esteri Mogherini, dicendo, anche a proposito della conferenza sulla Libia, dice: in realtà noi al momento non rischiamo dei problemi energetici, anche se poi ha aggiunto naturalmente non è che ci dobbiamo occupare di queste due aree solo per problemi di questo tipo, ma naturalmente per risolverli. E poi, come dicevi tu, a proposito di escalation, di possibili sanzioni a tappe, Van Rompuy, Presidente dell'Unione Europea, ha detto: la Russia deve cominciare i negoziati nei prossimi giorni, ci devono essere dei risultati, in mancanza dei quali l'Unione Europea è pronta a comminare sanzioni come divieto di viaggio, congelamento dei beni e cancellazione dei rapporti, e poi dice man mano conseguenze più dure. Sì, l'Europa è in difficoltà evidentemente, perché per due motivi fondamentalmente, almeno facciamo per tre motivi. Primo motivo, perché è divisa al proprio interno, come dicevo prima, l'Est Europa vuole una reazione molto più dura di quanto non la voglia la vecchia Europa nei confronti della Russia. Primo motivo. Secondo motivo, ci sono dei vari interessi europei, ci sono paesi che importano gas dalla Russia e ce ne sono che non importano gas dalla Russia. La Germania è fra quelli che sono dipendenti dal gas russo in modo incredibile. Le ultime statistiche dicono che il 60% del gas consumato in Germania proviene dalla Russia. Insomma, sono cifre notevoli. E l'Italia anche è piuttosto dipendente dal gas russo. direi che circa il 20%, se non di più, del gas consumato in Italia proviene dalla Russia. Quindi questo è il secondo aspetto che complica certamente la situazione. Il terzo aspetto è che l'Europa ha una parte di responsabilità in questa vicenda, perché l'Europa ha proposto un accordo di associazione all'Ucraina nel corso dell'anno scorso e ha continuato a proporlo nonostante ci fosse chiaramente il sentimento che questa proposta stava complicando le cose all'interno del paese e creando tensioni fra una comunità pro-Europa e un'altra comunità invece pro-russa. Se oggi l'Ucraina è sull'orlo della guerra civile, ho l'impressione che l'Europa abbia una parte di responsabilità. E chiaramente in questo momento gestire la situazione con questa parte di responsabilità certo non facilita le cose. Per chiudere, Beda, sentiamo che cosa ha detto Renzi oggi a proposito, prima l'abbiamo sentito sui conti pubblici italiani, adesso sull'Ucraina. Si è fatto un lavoro significativo, credo, qua a Bruxelles per tentare di accogliere il grido di dolore che arriva dal popolo ucraino. Si è raggiunto uno statement condiviso che credo stia per essere annunciato dal presidente Van Rompuy in queste ore e questi minuti. E credo che ci sia anche un filo diretto tra ciò che sta accadendo a Roma, dove, come sapete, si svolge la conferenza sulla Libia, ma dove proprio per questo motivo si sono ritrovati i ministri degli esteri dei principali paesi, e quello che abbiamo fatto qui oggi. Sentito Beda Romano, insomma, questa per ora è la posizione dell'Italia, quello che poteva dire al momento Matteo Renzi. Beda, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, buona continuazione. Grazie a Bruxelles molto. Ciao Beda. A presto. Ciao. E adesso andiamo proprio sul posto in Ucraina con Antonella Scotta, inviata del Sole 24 Ore. Laggiù, Antonella. Buonasera. Insomma, allora abbiamo sentito a proposito del vertice, intanto l'Europa, gli Stati Uniti che cosa hanno detto, e pare che intanto dovrebbe essere iniziata circa un'oretta fa o poco meno nuovo Consiglio di Sicurezza, nuova riunione del Consiglio di Sicurezza all'ONU, sempre su questo argomento, quindi pensiamo davvero a quante cose, quante istituzioni si muovono intorno a un problema di questo tipo, no Antonella? Sì, la cosa preoccupante è vedere che mentre da una parte si sta appunto cercando disperatamente di trovare un appiglio per cominciare a mettere la questione sul piano del negoziato, per riaprire un contatto tra il fronte ucraino e quello russo, invece da qui sul campo sembra proprio che si faccia di tutto per andare nella direzione opposta, proprio mettendo alla prova la pazienza, la posizione anche dei paesi europei che vogliono cercare di avere una posizione più morbida nei confronti della Russia. Dico questo perché appunto, come avete ricordato prima, la Crimea oggi, il Parlamento, diciamo il governo e il Parlamento che si sono autoproclamati la settimana scorsa e che quindi sono contrari, assolutamente ostili al governo di Kiev, hanno annunciato da una parte l'anticipo del referendum sulla possibilità per la Crimea di annettersi, cioè di chiedere l'adesione, l'annessione alla Russia al 16 marzo, quindi è la domenica della prossima settimana. Sì. Nello stesso tempo il governo autoproclamato, il Parlamento della Crimea ha deciso di chiedere, cioè ha votato, ha messo ai voti questa possibilità, questa annessione alla Russia e naturalmente l'ha approvata all'unanimità. Quindi è una decisione questa non vincolante che aspetterà l'esito del referendum quindi poi avrà bisogno anche di un'approvazione da parte di Mosca. In ogni caso questo è uno strappo che già porta quindi ancora più avanti la posizione della Crimea, che assolutamente a questo punto si pone al di fuori da ogni volontà di trovare un'intesa con i nuovi leader di Kiev. Tra l'altro, Antonella, oggi vedevamo le varie agenzie, le varie notizie che arrivavano dalla Crimea, è stata occupata la stazione TV e poi a un certo punto oscurata la TV della Crimea e in onda c'era Russia 24, che non ha nulla a che fare, rassicuro ascoltatrici e ascoltatori, con Radio 24, però lì evidentemente no, diciamo, ecco, quando poi si prende il potere diciamo, i mezzi di comunicazione, le TV sono la prima cosa, quindi il fatto che si trasmettesse Russia 24 vuol dire che lì, come dici tu, c'è poca intenzione di fare passi indietro. Sì, sì, assolutamente, ormai ogni giorno che passa si approfondisce sempre di più il controllo di queste, che ancora c'è anche appunto questa cosa surreale, il fatto che non sono ancora, dato che non hanno né bandiere né mostrine né insegne, non vengono considerate ufficialmente milizie, truppe di Mosca, e però sono, come ha detto Putin, sono milizie di autodifesa filorusse, ma comunque milizie locali. In ogni caso sì, ormai hanno completamente preso in mano tutto la penisola, e non solo il vice premier, che oggi appunto ha annunciato questo referendum del 16 marzo, ha anche anticipato che nel caso che il referendum sarà positivo, e cioè appunto appoggerà la proposta, chiamiamola così, di aderire alla Russia, di essere annessi alla Russia, tutte le imprese, le compagnie di Stato ucraine verranno nazionalizzate, la Crimea adotterà il rublo come propria moneta. Questa è la cosa più preoccupante, le truppe ucraine verranno considerate forze d'occupazione, quindi se finora si è riusciti a evitare uno scontro, non ci sono ancora stati gravi scontri, non ci sono ancora state vittime, perché in sostanza le poche truppe ucraine sono rimaste confinate sotto assedio nei loro siti, nelle installazioni militari, però in qualche modo si sono limitati a essere circondati e a studiarsi tra ucraini e russi. Ecco, se cominceranno a essere considerati dei nemici, le cose sono destinate a cambiare. Certo, e chiudo dicendo che il segretario generale della NATO oggi ha detto che questa è la più grave minaccia dopo la guerra fredda, quindi questo dà un po' la misura della situazione. Esatto. Antonella Scotta, io ti ringrazio e ti saluto, e ci sentiremo naturalmente nei prossimi giorni. Grazie a voi. Ciao, grazie Antonella. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Prima di passare all'Europa, vi ricordo tra i fatti principali naturalmente il vertice oggi di Bruxelles. Renzi ha detto nessun compito dall'Unione Europea, noi sappiamo cosa fare, fonti di governo fanno sapere che non ci saranno manovre correttive. E poi per quanto riguarda l'Ucraina, il referendum della Crimea è illegittimo, dicono Obama e l'Europa, l'Unione Europea pronta a comminare sanzioni a Mosca. Prosegue l'iter della legge elettorale, della riforma, slitta in realtà il voto sull'Italicum, monito di Napolitano, e poi c'è, diciamo, la rivolta delle donne sul testo relativo alla parità di genere. E adesso spostiamoci sull'Europa, vi dicevo, parliamo di brevetti oggi. Nel 2013 l'ufficio brevetti europeo ha registrato un nuovo record di domande di brevetti, ma diminuisce ancora il numero delle richieste provenienti dall'Italia. Stati Uniti e Giappone hanno costituito ancora il grosso delle richieste, mentre Cina e Corea del Sud fanno la parte del leone per quanto riguarda l'incremento delle domande. Europa 24 notte. Verso le europee. Nuovo record di domande di brevetti nel 2013 per l'ufficio brevetti europeo. Dall'Italia meno richieste, ma aumentano in via libera le innovazioni. Lo scorso anno le imprese italiane e i singoli inventori hanno formulato un totale di 4.663 richieste indirizzate all'IPO, mentre nel 2012 erano state 4.735, un calo del 2,7%, ma comunque una risalita rispetto a un calo più pesante del 3,4% nel 2012. L'Italia comunque ha visto aumentare il numero di brevetti concessi, il 5% in più, classificandosi quindi all'11° posto. E secondo il presidente di IPO, Benoît Battistelli, l'Europa, Italia compresa, si conferma come uno snodo importante per l'innovazione, con un boom di 60.700 brevetti europei concessi e con un aumento dell'1,6% sul 2012. Abbiamo avuto un aumento delle nostre domande di brevetti nel 2013 del 2,8% sull'anno precedente, e in tutto l'ufficio brevetti europeo ha ricevuto 265.000 richieste, che è il miglior risultato di sempre. Il 35% delle domande viene da paesi europei e il 65% da paesi extraeuropei. Per questo IPO ha un ruolo a livello internazionale. Le tre società italiane che hanno richiesto il maggior numero di brevetti all'IPO Filippo. Entrambe con 62 domande sono Lion del Basel, società specializzata in prodotti petrolchimici, e Indesit, produttore di elettrodomestici, seguiti dalla società chimica Solvay con 53 domande. Con 60 domande di brevetti europei ogni milione di abitanti, l'Italia si è classificata in 18esima posizione, dietro gli Stati Uniti, 16esimi, e sotto la media europea di 129 richieste ogni milione di abitanti. E in tutta Europa il portafoglio brevetti 2013 è stato variegato e ripartito in maniera equa. Il primo settore per richieste è quello delle tecnologie mediche, che in Europa ha grandi protagonisti, poi quello chimico, quello farmaceutico, quello dei macchinari elettrici, quello energetico, comunicazione digitale, computer, trasporti, tutti i settori nei quali abbiamo avuto forti aumenti di richieste. All'ufficio brevetti europeo a dominare la lista delle prime aziende per richieste è ancora Samsung, seguita da Siemens e Philips. Con quasi 7.000 dipendenti, l'ufficio brevetti europeo, l'IPO, è una delle maggiori istituzioni di pubblico servizio in Europa. Il quartier generale a Monaco di Baviera dispone di uffici a Berlino, Bruxelles, Vienna, ma gli inventori possono ottenere una protezione quasi mondiale in base a un'unica richiesta di brevetto europeo. Possiamo proteggere le invenzioni in tutti i paesi europei, ma anche gli inventori possono ottenere la protezione del proprio brevetto nei 38 stati aderenti all'organizzazione sulla base di un'unica richiesta di brevetto europeo. L'Italia rappresenta solo il 2% del totale, si classifica all'11° posto, mentre la maggior parte delle richieste è arrivata da Stati Uniti e Giappone, ma anche da Cina e Corea del Sud. Siamo in un trend di crescita, più o meno del 3% in più ogni anno, ed è stato il trend degli ultimi 10-15 anni, a dispetto della crisi economica. Le aziende hanno capito che il modo migliore per uscire dalla crisi è diventare più innovativi. È questo il vero valore aggiunto, ed è per questo che chiedono sempre più brevetti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso parliamo invece dell'ILVA. Oggi è arrivata la notizia della, a 4 mesi dalla chiusura delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica di Taranto deposita all'ufficio del GIP del Tribunale la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta per disastro ambientale a carico dell'ILVA per 53 indagati. Ciao Domenico Palmiotti. Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. Domenico Palmiotti, valente e valoroso collaboratore del Sole 24 Ore, al quale vorrei chiedere, Domenico, di raccontarci un po' in breve questa storia fino ad arrivare appunto a questo fallimento sia del come si può dire, del sistema industriale e politico lì a Taranto, di una città che vorrei capire da te a che punto sta. Beh, è una storia, un'inchiesta che parte da lontano, parte nel 2009 con una serie di accertamenti e di indagini, però conosce la sua impennata nel luglio 2012, quando poi ci sono i primi sequestri e i primi arresti. Si va avanti ancora per il 2012 e parte del 2013 con altri sequestri e arresti, poi, come dicevi tu, 4 mesi fa, a ottobre, la Procura presenta il conto, l'avviso di conclusione dell'indagine per 50 indagati, 50 persone fisiche e 3 persone giuridiche, cioè 3 società. Oggi abbiamo avuto un altro passaggio, che è appunto la richiesta di rinvio a giudizio che la Procura ha fatto all'ufficio del GUP. Adesso che cosa accade? Il GUP fisserà l'udienza preliminare dove deciderà se rinviare effettivamente a giudizio queste persone oppure proscioglierle. È evidente che andiamo ormai verso il processo. Ci sono responsabilità pesanti in questa inchiesta, su tutte quelle che riguardano i Riva, Emilio Riva, il big del gruppo siderurgico, e i figli Nicola e Fabio, nonché un ex direttore dello stabilimento di Taranto, Luigi Capogrosso. Su di loro c'è l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, un reato grave, un reato molto pesante, per il quale è previsto il giudizio davanti alla Corte d'Assise. Vendola invece, che il cui coinvolgimento ha destato più clamore per il ruolo che ha, il governatore della Puglia, leader nazionale di SEL, è accusato invece di concussione aggravata. Secondo i giudici, Vendola ha fatto pressioni qualche anno fa sull'ARPA, che è l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, affinché mitigasse la sua attenzione verso l'ILVA, fosse meno intransigente. Vendola ancora oggi si è difeso dicendo la mia giunta, il mio governo regionale è quello che ha fatto le leggi contro l'inquinamento, sono io che ho strappato il velo di omertà che chiudeva, così copriva la vicenda dell'Ilva Taranto, sono io che ho fatto la battaglia per l'ambiente. Se aver difeso il diritto alla salute dei tarantini col diritto al lavoro dei tarantini è un reato, ebbene sì, sono colpevole. Così si è difeso. Bisogna ricordare che è stato uno dei pochissimi che all'indomani dell'avviso di conclusione delle indagini è andato dai magistrati per farsi interrogare, era l'antivigilia di Natale. Vendola fece una difesa molto appassionata, molto vigorosa di se stesso e dell'operato della sua giunta quel 23 dicembre, un interrogatorio che finì tardissimo, intorno alle 23 dell'antivigilia di Natale, però ecco, questa sua difesa evidentemente non ha convinto i giudici, se oggi hanno chiesto il suo rinvio anche giudizio per il governatore, il rinvio a giudizio. E poi ci sono vari coinvolgimenti, anche il sindaco di Taranto per esempio è coinvolto. Al sindaco di Taranto Ezio Stefano. Ezio Stefano, certo sì, si contesta l'omissione di ufficio. In sostanza la procura dice a Stefano: tu ci hai segnalato nel maggio 2010 la gravità della situazione ambientale, però tu come sindaco potevi fare delle cose, potevi agire per prevenire e reprimere i fenomeni inquinanti e invece non lo hai fatto, e di qui appunto la contestazione dell'omissione di atti di ufficio. A che punto siamo? L'Ilva è un caso ormai più che nazionale, direi europeo. Prova ne è che dal dicembre 2012 ad oggi il Parlamento ha varato 3 leggi specifiche sull'Ilva. Non c'è, credo, azienda industriale italiana o vicenda che abbia avuto 3 leggi specifiche nel giro di un anno. Se poi aggiungiamo un'altra legge dove sono stati infilati anche dei provvedimenti sull'Ilva, arriviamo a 4 provvedimenti complessivi. L'azienda è ad uno snodo molto delicato perché l'Ilva è in una situazione finanziaria molto pesante. La manovra di risanamento ambientale costa 3 miliardi, mettere a norma gli impianti, bonificare l'ambiente costa 3 miliardi. E quindi bisognerà vedere il futuro, Domenico, perché noi siamo arrivati purtroppo in chiusura, ma ci sarà modo anche su questo di risentirci, perché quegli ambientalisti lo presentano come uno dei più importanti processi nella storia della Repubblica Italiana per la devastazione ambientale. Grazie Domenico Palmiotti, sì. A presto e noi tra poco.